Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Ogni tanto mi dovevo ricordare di fermarmi a una cabina telefonica per chiamare casa, dicendo alla mamma, nel tempo di un pugno di gettoni, che va tutto bene, che mi sto divertendo, tralasciando la stanchezza, la vita zingaresca e le dormite sul sedile del furgone. Ciao, sono Rocco, vivo a Teramo, ma sono monturghese. Ho 48 anni, sposato con due figlie e sono giornalista. Che di solito succede da giovani, di solito succede nelle estati, quando si è giovani, quando si è finita la scuola, si aspetta magari di cominciare l'anno successivo, oppure si aspetta di capire che cosa si vuole fare della propria vita, se andare all'università o appunto cominciare un lavoro, e ancora quale, no? Cominciare un lavoro ufficiale. Ecco, di solito in quei periodi si finisce a fare un mestiere che magari poi da grande uno quello sarebbe un mestiere che uno bistratta. Invece spesso ci sono mestieri, ripeto, da giovani, in quei periodi, in quelle stagioni della vita, che ti danno una enorme sensazione di libertà. Buongiorno a tutti, sono le 16:07, Radio 24, il programma è Voi Siete Qui. Se avete voglia di condividere con noi quelle storie lì, quelle storie legate ai mestieri che vi hanno fatto sentire liberi, se lo state facendo, alla grande, va benissimo pure quello. 349-238-6666. Facevo riferimento a lavori del passato e della gioventù, perché di solito arriva da lì quella sensazione, e perché la storia di Rocco di oggi parla di un periodo uguale, di quel tipo, uguale a quello di cui parlavo, cioè ragazzo, ha finito di studiare e parte per fare un mestiere che è proprio sulla strada, è on the road, e quindi ha quel sapore, quella sfumatura di libertà. 349-238-6666, ma anche Claudio, ad esempio, che scrive sul profilo Facebook: voi siete qui Radio 24, 1974, Noto Marina, Hotel Eloro. Ero iscritto a Scienze Politiche ed estate trovare questo lavoro. La mia qualifica era chef plongée, una maniera elegante per dire lavapiatti. Mi feci il mio primo libretto di lavoro con la dicitura facchino di cucina, che tanto poi sorprese quando entrai in banca, facendo anche una discreta carriera. Eppure il gusto di quei primi soldi, la libertà dell'estate, il mare e il resto li ricordo ancora con un buon sapore. 349-238-6666. Gianluigi, nel 2001 lavoravo per una cooperativa di facchinaggio egiziana. Facevamo lavori pesantissimi presso un'enorme azienda siderurgica lombarda. Ricordo la squadra di lavoro: marocchini, macedoni, albanesi, egiziani. Ricordo la baracca, 1,5 metri x 2,5 metri, che ci avevano concesso per cambiarci, rilassarci e mangiare. In quel souk che puzzava di sudore, grasso, piedi, sporco, cibo di varie provenienze, io mi liberai dei pregiudizi per le etnie peggio sponsorizzate dai media nazionali di quel bel periodo. 349-238-6666. Magari lo state facendo adesso, un lavoro che vi rende liberi. Magari non l'avete mai fatto, come scrive Sergio, non è mai stato così purtroppo, o Maria che dice boh, bella domanda. Eppure quei mestieri, come quello di Mauro invece, che dice addetto notturno di reception presso il Cursal Hotel di Firenze, non si capisce perché alcuni mestieri ti regalano una sensazione di libertà, perché quando uno pensa al lavoro, pensate alla domenica sera, quando sapete che dovete cominciare a lavorare il lunedì, proprio la libertà è l'ultimo dei pensieri che vi viene in mente. Eppure ci sono mestieri, ci sono periodi, ci sono appunto stagioni della vita che hanno quel sapore, soprattutto nel ricordo, anche se in realtà da quello che racconta Rocco, che è come se fosse una sorta di diario di quei giorni sulle strade, in questo caso della Sicilia, forse non è solo un ricordo, è che lo vivevi in quel modo lì, che ti dava indipendenza, era il primo lavoro, avevi dei soldi in tasca. Tant'è. 349-238-6666 per gli sms, oppure il profilo Twitter è il profilo del programma. Non so dirlo, cercatelo, tanto lo trovate. Mettete Voi Siete Qui Twitter su Google, lo trovate. Voi Siete Qui Facebook su Google, idem. La storia di Rocco, appunto, parla di un mestiere di strada, parla di un mestiere che dà libertà. Ho sonno, tanto sonno. Walter nell'altro letto ronfa alla grande, colpa dei chilometri. Forse anche dell'ennesimo barattolo di birra prima di dormire. È già caldo e mi sembra strano che Gabriele, col suo solito modo di fare agitato ma paterno, non si sia ancora fatto vivo per buttarci giù dal letto. Decido di anticiparlo e anticipo anche Walter andando sotto la doccia per primo. Non so quando avrò modo di farne un'altra. Ho anche fame. Il mio corpo non capisce se è ora di cappuccino o di spaghetti. Uscito dalla doccia guardo fuori dalla finestra. Questo scorcio di Sicilia è bellissimo. granelli di sabbia dorata, mare verde chiaro e cielo azzurro profondo. Dopo la fine del liceo e la fine della mia prima storia importante, ho bisogno di cambiare aria e tirar su qualche soldo. I miei amici fanno i camerieri sull'Adriatico, io ho sempre avuto bisogno di musica e quindi faccio il Rodi. Il gruppo che seguivo all'epoca erano i Super 4 ed era formato da Riccardo Del Turco, Gianni Meccia, Nico Fidenco e Jimmy Fontana. Facevano tutti i loro successi degli anni 60 ed era assolutamente in grado di riempire tutte le piazze d'Italia. Viaggio con la musica e la musica viaggia con me, giusto dietro alle mie spalle, stipata nel grosso vano del furgone che guido su e giù per l'Italia, permettendo agli artisti di fare i loro concerti. Fino a un paio di mesi fa ero sotto i palchi a far suonare gli amici, visto che da tempo avevo abbandonato ogni velleità di fare il musicista io stesso. Ho fatto andare, a forza di riparazioni di fortuna, attrezzature spesso malandate, mixer rumorosi, amplificatori vecchi e usurati, in piccoli locali pieni di polvere. Poi, una serata di primavera in cui ai grandi serviva una mano in più, in una piazza di paese dove non c'era molto da fare, mi hanno lasciato fare i suoni e l'ho fatto bene. Ecco, è stato lì che ho ricevuto una proposta di collaborare per l'estate. Inizierai a scaricare i camion e a montare il palco, poi si vedrà, mi dissero. E invece, dopo un paio di settimane, sono partito in tournée. Un sogno, per la prima volta lontano da casa, da solo. I viaggi, la musica, le strade ed ogni sera un dialetto diverso. I musicisti che diventano amici, la squadra che è solida. Anche se si tratta pur sempre di scaricare il furgone, attrezzare il palco, condurre i musicisti lungo la serata dal mixer di palco, smontare e ricaricare tutto sui furgoni e ripartire. Ecco, nonostante tutto, mi fa stare bene. E ogni tanto mi devo ricordare di fermarmi a una cabina telefonica per chiamare casa, dicendo alla mamma, nel tempo di un pugno di gettoni, che va tutto bene, che mi sto divertendo, tralasciando la stanchezza, la vita zingaresca, le dormite sul sedile del furgone o dietro, nel vano carico, su un vecchio materassino gettato sulla pedana del batterista. Oggi però no, oggi è la terza serata in Sicilia e dormiamo in un comodo hotel e stasera siamo sull'Etna. Tra cappuccino e spaghetti hanno vinto le sarde. L'ora è giusta e Gabriele decide che si pranza in hotel. Alle 2 si parte e in poco meno di un'ora siamo sul posto. L'ampia piazza squadrata con due lati di porticati con bar e botteghe, il terzo lato aperto sulla strada principale che la attraversa e sul quarto la chiesa. E poi il palco, spoglio e triste come tutti i palchi che attendono di essere addobbati per la festa, che è messo in obliquo. Parcheggiamo i furgoni e subito ci si fa dinanzi un signore sulla quarantina, distinto, autorevole, che si presenta come il comitato. Andiamo in un bar e io sono attento agli strumenti, ma lui mi dice di non preoccuparmi, che qui non tocca niente nessuno. È stata una sorta di capire di essere protetti, perché all'interno di una situazione in cui hai un palco, dei furgoni carichi di strumenti e di tutta una situazione da portare avanti, sapere che c'è qualcuno che ti dà il via, ti dà il go, significa che possiamo stare tranquilli, possiamo lavorare per tutta la serata. Tuttavia, a forza di chiacchiere, il tempo passa e dal caffè si passa alla granita al limone e poi ancora chiacchiere. Domande sugli artisti, sui componenti del gruppo, sui watt dell'impianto. Non sono domande impertinenti, sono solo curiose. Preoccupato guardo Gabriele perché il palco richiede un certo tempo per l'allestimento. Poi, d'un tratto, la porta del bar si spalanca, entra un ragazzino di non più di 6 anni, trafelato, canottiera, pantaloncini e ciabatte, che senza preamboli esclama «Ha detto Don Vito che si può cominciare!». Senza scomporsi, il nostro comitato si alza e dice «Beh, spero che abbiate gradito la nostra accoglienza. Vi faccio vedere dov'è la corrente». Non ho mai più saputo chi fosse Don Vito. Inventa un giorno che non c'è, tra il sabato e il venerdì, e ti porterò con me, ti mostrerò il mio paese. Non so il perché, però alla fine del liceo io ero sicuro che qualcuno mi avrebbe citofonato chiedendomi di fare il dirigente della sua azienda. E non lo so il perché, però io avrei dovuto dire di no, perché ero pronto per diventare Presidente della Repubblica. Insomma, diciamo che ero convinto che avrei trovato tutte le porte spalancate e che il mio futuro, il mio lavoro futuro, sarebbe stato di altissimo profilo, ben pagato e con tante ferie. Ecco perché, quando il mio amico Fabrizio mi chiese se volevo andare a fare il cameriere allo stadio di San Siro, gli risposi di no. Avevo conosciuto Fabrizio su un campo di calcio e sapevo che lui faceva questi lavoretti per tirar su dei soldi mentre aspettava di capire cosa fare nella sua vita. Era indeciso se fare l'università oppure un corso per fisioterapista, perché gli avevano detto che si guadagnava bene e non c'era bisogno di studiare troppo. Lui aveva mani forti e si interessava sempre degli infortuni dei suoi amici, dava consigli per ginocchia, caviglie, strappi muscolari. Però non si era ancora deciso e allora andava a consegnare i giornali nelle edicole alla mattina presto, poi aiutava in un bar e ogni tanto, la domenica, aveva questo posto nel catering della zona VIP dello stadio Meazza, dove gli spettatori della Tribuna Rossa possono andare quando sono stufi di vedere la partita o tra il primo e il secondo tempo. Io avevo, credo, 16 anni. Non ne capivo moltissimo. Lui un giorno però mi disse che c'era qualcuno dei suoi colleghi con l'influenza e se volevo tirar su 50.000 lire dovevo solo vestirmi con pantaloni neri e camicia bianca e farmi trovare a mezzogiorno davanti all'ingresso C dello stadio. Io non avevo mai fatto il cameriere e mi sembrava un mestiere un po', come dire, poco prestigioso. Avevo 16 anni ed ero un cretino. E quindi pensavo che di un lavoro poco prestigioso non puoi andare fiero, non puoi esserne felice. Insomma, mi sembrava una boiata di idea. Però c'era un Inter-Sampdoria quel giorno e fare il cameriere nella zona VIP voleva dire che durante la partita non c'era tanto da fare, si poteva vedere il campo dalle vetrate e molto da vicino. E allora dissi di sì. Non vi sto a descrivere che cosa significhi portare avanti e indietro vassoi pieni di cibo per gente che quando c'è da mangiare gratis sembra un branco di lupi. Quello che voglio dire però è che dopo 6 ore lì dentro, quando mi sono tolto la camicia bianca, mi sono rimesso i jeans, le 50.000 lire che avevo in tasca mi facevano sentire un uomo ricco, felice. Mi facevano sentire uno figo. Avevo fatto qualcosa e mi avevano dato dei soldi per averlo fatto. Non mi era mai accaduto prima ed è stata una sensazione di libertà per la quale ancora oggi devo ringraziare Fabrizio. Da lì in poi ho aiutato un meccanico, ho consegnato pizze, ho imbiancato case e non mi sono mai sentito inferiore a un dirigente d'azienda e nemmeno a uno che parla alla radio. Diego scrive sul profilo Facebook: sono stato venditore di Kraffen nelle spiagge, gridavo e avevo la campana, mi sono trovato ad avere molto coraggio con le ragazze e sono diventato il consigliere comunale più votato della mia città, Albissola Superiore, che mi sono sempre chiesto perché i Kraffen sulle spiagge, cioè che il coccolo puoi capire, i gelati anche, ma il bombolone, perché il Kraffen poi è il bombolone, giusto, che è super fritto, con dentro la crema, d'estate, sulla spiaggia. 349-238-6666. 1984, estate in camicia bianca e pantaloni neri, un'estate a servire ai tavoli di un bar in riva al mare, ma poi via con la mia Vespa PX 125 Primavera, comprata con i soldi guadagnati quell'estate. Ricordo ancora il profumo della miscela mescolata all'aria del mare. Simone, 349-238-6666. C'è un lavoro che vi ha dato la sensazione di libertà, se lo state facendo, meglio ancora, come scrive Adelio da Perugia, che dice: sono autista di camion e non camionista, specifica. Da Glasgow a Porto, da Atene a Berlino, è finita un po' la poesia, ma non la libertà. Se lo state vivendo quel mestiere, raccontatecelo oggi, oppure se l'avete vissuto, che mestiere era. Rocco ne parla con molta chiarezza. Erano gli anni 80 e faceva Rodi. Pronto, Rocco? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai? Benissimo. Ci spieghi esattamente che cos'è il Rodi? Perché non è così, diciamo, chiaro che tutti lo conoscano, insomma, come termine, come mestiere. Guarda, il Rodi, dal termine road, strada, diciamo che raggruppa tutti quelli che fanno parte dell'entourage di concerti dal vivo, tournée, anche teatrali, mm-hmm. e si occupano di dell'aspetto tecnico, ma anche logistico, che ne so, l'ufficio stampa e tutto, tutti quelli che viaggiano insieme agli artisti che non sono gli artisti. E tu ci sei arrivato perché semplicemente smanettavi con dei mixer, con della roba di palco, e ti hanno chiamato, come racconti, una sera ti hanno detto: perché non vieni a farlo? Esatto, io ero lì che suonavo con gli amici, come tanti, in cantina, e amici che poi sono diventati musicisti veri. Io invece evidentemente avevo, il mio destino era un'altra strada, e quindi ho iniziato così a occuparmi di elettronica. E per quanto tempo l'hai fatto poi il Rodi, il tecnico, insomma? Ma qualche anno, in realtà per qualche estate, non anni interi, perché poi d'inverno ero a Roma all'università. Ok, quindi era il lavoro estivo. Ma a me capita ogni tanto di fare magari delle piccole cose, degli eventi dal vivo, e vedere il lavoro di queste persone è un lavoro incredibile. Cioè, questi arrivano, montano, preparano tutto, si fanno la serata. Finita la serata, quando gli artisti, come giustamente tu definisci, tra virgolette, vanno a bere e mangiare, pigliano, smontano, caricano sul furgone e ripartono per la sera dopo. Sì, perché magari la sera dopo sono a 500 km di distanza e gli artisti, se sono importanti, viaggiano in aereo. E noi viaggiavamo con furgoni, anche perché camion non potevano viaggiare, perché durante i weekend c'era il traffico limitato all'epoca. Ma che tu sappia, vabbè, sei fuori dal giro, immagino, quindi non lo sai, però si trova ancora facilmente lavoro per uno che abbia voglia di farlo oggi, oppure anche lì è complicata, ci sono problemi? No, guarda. Guarda, oggi il mondo dei concerti dal vivo è ridotto alle grandi tournée, ai piccolissimi eventi, è sparita un po' quella fascia media, quella parte di, come posso dire, serate, grandi serate di paesi, di campi sportivi. Invece, quindi, scusami, insomma, anche lì. Parliamo del gruppo per cui tu lavoravi, i Fantastici 4. No, scusa, no, i Super 4. I Super 4, perdono, i Fantastici 4 sono i supereroi. I Super 4 che sono, mi ricordi i nomi? Allora, Jimmy Fontana, Riccardo Del Turco, Gianni Meccia e Nico Fidenco. Ma dimmi qualche canzone che cantavano. Dai, Jimmy Fontana, Il Mondo. E... Ah, Il Mondo, non si è fermato mai un momento. Esatto. Lui, ok. Lui, Riccardo Del Turco, Luglio col bene che ti voglio. Ah, ma quindi roba forte era. Sì, anni 60 in pieno. Poi Gianni Meccia con Il Barattolo oppure Il Pullover. Scusami, ecco, volevo chiederti questo, ma per caso, questo è questo qua? Esatto, è lui. Bastano tre note per riconoscerlo. Il pullover che m'hai dato tu. Lui è Gianni Meccia, giusto? Gianni Meccia. E com'erano gli artisti con voi? Ma eravamo una squadra, eravamo sempre affiatati. C'è chi aveva... Nico Fidenco, per esempio, era il più serio, il più signore di tutti. Jimmy Fontana aveva sempre dei figli che avevano... aveva sempre con sé dei figli che avevano la nostra età, e quindi scherzavamo sul palco, giocavamo. Immagino. Rocco, cos'è successo da allora ad oggi? Che cosa fai? Oggi sono giornalista, mi occupo sempre di elettronica di consumo, curo la sezione Claudio della più diffusa rivista di EFA italiana, posso dire il nome? Sì. Ah, ma sì, dilla, ma certo. Audio Review. Che sono quelle riviste di settore che io mi domando sempre, ma chi le comprerà? E invece c'è ancora un mercato. Tutti gli appassionati di EFA, di musica, c'è una interessante sezione musicale. Comunque, ma scusami, per capire, visto... anche in altri settori. Visto che è una cosa che io mi chiedo sempre, sì. Che tiratura hanno questi giornali? È abbastanza, dai. Non mi far dare. Va bene, facciamo così. Cioè, più di 10.000 meno di 20? Più di 20 meno di 30? Diciamo dai 20 in su, dai. Ok, dimmi qual è l'ultima novità in fatto di alta fedeltà. La musica digitale, detta anche musica liquida. Ovvero non c'è più il supporto, non c'è più il disco, ma si ascolta musica che viene direttamente scaricata dal web. Okay, vabbè. Anche in alta definizione. Cioè l'MP3? Ah, non solo gli MP3. Non sono gli MP3, è musica con qualità superiore a quella del CD. Vabbè. Cioè, ho capito benissimo, però ho capito che è una roba ancora più figa. Ancora più figa di quella che... Hai presente? Sì, ho presente iTunes, sì. Ecco, iTunes però con file ad alta definizione. Alta definizione, guarda, il paragone lo puoi fare con il video normale e il video in l'HD. Alta definizione. Ok, esatto. Perfetto, questo mi sembra chiarissimo. Rocco, ti ringrazio, storia, per la chiacchierata come al solito, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te. Ciao, a presto, buona giornata. Ciao, grazie. Vedi, credo di essere fortunato, scrive Ryan. Sono di Milano, sono un ballerino, insegnante e coreografo. Sono libero e sono felice. siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. È una bella foto quella di Rocco che ci ha mandato, che ovviamente trovate sul sito di Radio 24, la nostra pagina. Voi siete qui. Andateci adesso a vederla se riuscite. Ha delle cuffie in testa, delle cuffie audio, quindi sta ascoltando qualcosa. Potrebbe essere un DJ, ma non è così perché non c'è il microfono davanti e perché soprattutto alle sue spalle c'è un altro tizio con le stesse cuffie in testa, come se stessero ascoltando chissà cosa. Potrebbe benissimo essere una sorta di opera d'arte contemporanea in cui ti trovi in una stanza strana, devi metterti delle cuffie, ascoltare qualcosa e far accadere qualcosa. Rodi, Rodi, Rodi. Nome, incaricato del trasporto e del montaggio delle attrezzature di un gruppo musicale. Evviva la sintesi. 349-238-6666, sono stato preso alla sorpresa pure io, perché era brevissima, perché c'era anche tra l'altro una eco strana nella voce di Alessandra De Luca, ma anche e soprattutto perché non c'è stata la borsa oggi. Noi di solito alle 4.30 puntualissimi ci chiediamo, ma che cosa ne sarà delle borse? E oggi infatti ci rimane un po' un vuoto nel cuore. Pietro Lacorte, se è possibile magari per recuperare come stiamo a Milano, come stiamo a New York, a Tokyo. Forse Tokyo è già chiusa, New York è appena aperta. Vabbè, alle 17 lo chiediamo direttamente a Sebastiano Barisoni. Oggi si parla di quei lavori che in qualche modo vi hanno fatto sentire liberi. E mi scrive Stefano: ciao, nessun camionista ti ha scritto, strano, io lo sono e mi sento libero. Come no? Guarda, ne ho letto uno prima, poi ne sono arrivati altri. Eccolo qua, Roberto da Modena. A 16 anni, primo lavoro in un'officina meccanica. Finito il militare, però non riuscivo più a fare 8 ore chiuso in officina. Un mio zio cercava un autista e gli dico: vengo a provare. Sono 34 anni che, nonostante brutto tempo, sono rimasto anche bloccato giorni in cabina per la neve, scrive. E 700-800 km al giorno è una forma di libertà che non cambio con altri lavori. Ce n'è un altro... Alberto, camionista, lavoro, vivo per strada con altri camionisti, alcuni bravi, altri tagliagole, vita avventurosa da cane sciolto, ma anche pericolosa, ma sono vivo. Alberto, sembra un racconto alla Stevenson questo, di pirati e bucanieri, gente con gambe di legno che guida i camion, gambe di legno che guida il camion, immagino di no, perché il camion... Ma esiste un camion automatico? I camion hanno il cambio? O avranno un cambio adesso dico una roba senza saperlo, avranno un cambio sequenziale, cioè una roba facile da gestire. Se siete camionisti, esiste un camion automatico. 349-238-6666. Sembriamo Isoradio, ma non è così. Uomini e camion. Quella è un'altra radio, un'altra trasmissione. Il primo lavoro, sono andato a cogliere il tabacco. Si iniziava alle 6, si finiva alle 20. Ero distrutto, ma felice. Da responsabile commerciale di aziende alimentari, sono diventato padroncino per un'azienda farmaceutica. Boh, che chissà cosa vorrà dire, cioè che trasporti farmaci, oppure che sei un rappresentante. Vabbè, ora sono titolare di me stesso, ma soprattutto basta stress mentale. Non vesto più in giacca e cravatta e ora mi sento libero. Claudio, 42 anni, da Trento. In realtà questo messaggio segna proprio un confine, perché sono arrivati molti messaggi che dicono di sentirsi liberi da quando hanno cominciato a lavorare per qualcun altro, quindi non hanno più pensieri legati al fare impresa e quindi avere tutte le responsabilità, e altri come Claudio invece che sostengono esattamente il contrario, cioè non ho più capi e mi faccio tutto da me. Uno che capi non ne aveva e che non credo non abbia mai avuto era uno scrittore americano che ha tracciato un solco, ha disegnato una strada, ha segnato una strada, soprattutto con quel romanzo che si chiama proprio Sulla strada, On the Road. Sto parlando di Jack Kerouac. Kerouac, tra i vari romanzi che ha scritto in cui faceva questi viaggi lisergici oltre che fisici, racconta in un libro che si chiama, non è I vagabondi del Dharma, da mezz'ora che lo chiedevo a Tiziano, ma è Angeli della desolazione, racconta di un lavoro molto particolare. È uno di quei lavori che lui fa fermandosi un tot in un posto per tirare su dei soldi e ripartire, e fa l'avvistatore di incendi in cima a un monte di un parco enorme di piante secolari davanti a sé. Lui sta in questa casetta e deve semplicemente controllare che non vengano appiccati degli incendi o che non divampino in giro, e quindi passa delle giornate molto particolari, in totale solitudine e direi in totale libertà. E così per lunghi pomeriggi me ne sto seduto sulla poltroncina di tela in faccia al vuoto Osomin, Il silenzio invade la mia piccola baracca. La stufa è spenta, i piatti brillano. La legna per il fuoco, vecchi legnetti che hanno la forma dell'acqua e del fango, con i quali accendo piccoli fuochi indiani nella stufa per preparare un pasto rapido. La catasta di legna sta lì nell'angolo, a mo' di serpente. I cibi in scatola attendono di essere aperti. Le vecchie scarpe scalcagnate piangono. Le padelle pendono, gli strofinacci stanno appesi. Le mie varie cose giacciono in silenzio al loro posto nella stanza. Gli occhi mi bruciano, il vento mulina e sferza le finestre e le persiane sollevate. La luce del tardo pomeriggio getta ombre di un blu profondo sull'osomin, rivelando la sua vena rossa nel centro. E non ho altro da fare che attendere e respirare. E il respiro è difficile nell'aria sottile dell'alta montagna per i sibilanti seni nasali abituati alla West Coast. Attendere, respirare, mangiare, dormire, cucinare, lavare, perlustrare e vigilare. Mai un incendio nelle foreste. E sognare, a occhi aperti. Che cosa farò quando arriverò a Frisco? Beh, per prima cosa mi prendo una stanza a Chinatown. Ma ancora più vicino e dolce è il sogno a occhi aperti di quello che farò il giorno della partenza. Un certo beato giorno ai primi di settembre. Scenderò lungo il sentiero 2 ore, incontrerò Phil al battello, raggiungerò il Ross Float, ci dormirò una notte, farò 2 chiacchiere in cucina, partirò la mattina presto sulla Diablo Boat, proprio da quel piccolo molo. Farò l'autostop fino a Marble Mount, prenderò la paga, pagherò i debiti, comprerò una bottiglia di vino per bermela sulla riva dello Skagit nel pomeriggio e il giorno dopo partirò per Seattle. On bended knee is no way to be free. Lifting up an empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Faccio il mestiere più bello del mondo, l'apicoltore. Vivo in armonia con le stagioni, anche 16 ore al giorno in certi periodi. 349-238-6666, in questa puntata che chiude il mese di maggio e dall'inizio all'ultimo mese di diretta di Voi Siete Qui, mese in cui ci sarà anche l'evento finale, che è il live di questo programma. Un evento in cui semplicemente tiriamo le file della stagione e sarà 27 di giugno, giovedì 27 di giugno. Non lo facciamo il venerdì, ci chiedevano perché non lo fate il venerdì? Perché di solito a Milano succede che il venerdì, se qualcuno deve andare via, va via, magari insomma fuori dalla città. E quindi lo facciamo giovedì sera 27 giugno dalle 21. L'ingresso è gratuito, come al solito. Via Monterosa 91, qui dalla sede di Radio 24, dalla splendida Serra del Sole 24 ore. Da lunedì è ufficiale. Sono aperte le iscrizioni. Da lunedì ve lo ricorderò in diretta. Ci sarà una pagina molto semplice in cui scrivere i vostri dati, inviare, e da lì il gioco è fatto. Ci si sente liberi facendo diversi lavori. Ad esempio, alla fine della quarta superiore Mattia scrive: ho fatto il falegname per 2 mesi estivi. La prima paghetta settimanale l'ho spesa comprandomi un paio di occhiali da sole. Bellissimo. E voglio chiudere invece la puntata di oggi con questi. Vabbè, innanzitutto ringrazio Giovanni che mi scrive che il Man TGS, dove per Man TGS si intende un camion, ha un cambio automatico 12 marce. E per me rimarrà un mistero come se ha un cambio automatico può avere 12 marce, ma ne parliamo un'altra volta. Questi ultimi due messaggi. Da oltre 20 anni dirigente d'azienda, ma quando da studente ho lavorato d'estate ero un re. Sandro da Parma. E l'ultimo invece è: sono una ragazza di 16 anni, mi hanno proposto di fare l'istruttrice di vela e ho paura di sentirmi oppressa dalla responsabilità. Vi auguro un buon weekend con questi due ultimi messaggi, ringraziando Stefano D'Andrea, Margherita Ina, Pietro Lacorte e Tiziano Bonini. Ringrazio soprattutto Rocco perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Paolo, vivo nella provincia di Modena. La storia di lunedì è la mia e racconta di una vacanza pericolosa in Jugoslavia. Questa è la mia storia e io sono qui.